si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, buon sabato, ben ritrovati con Si può fare insieme fino alle 10 con la lettura dei giornali di oggi, tra pochissimo, poi i nostri approfondimenti, le buone notizie che metteremo come sempre al vaglio di voi ascoltatori. Il primo argomento di cui parleremo è sul tema dei rifiuti, perché come sapete questa settimana l'Italia è stata multata dall'Unione Europea per 40 milioni di euro perché in Italia ci sono troppe discariche abusive. Il ministro dell'Ambiente Galletti ha tranquillizzato, ha detto: non pagheremo un euro di multa, state tranquilli perché stiamo risolvendo tutto. Sarà, ma insomma è strano perché insomma con una gestione corretta dei rifiuti pensate che oltre a un ambiente più pulito potremmo avere anche un sacco di posti di lavoro. Un rapporto di questa settimana dice, e questa è la buona notizia, che soltanto con il recupero per esempio delle bottiglie di plastica, di PET, si potrebbero creare in Europa 870.000 posti di lavoro in tutta Europa, e così vale per tutti i settori del riciclo. Ne parleremo più avanti con il coordinatore dell'associazione Comuni Virtuosi Marco Boschini, autore di un libro che dice: i rifiuti non esistono, e ci farà vedere come e perché in Italia ci sono tante buone pratiche e eccellenze nella gestione dei rifiuti che, se estese a tutta Italia, insomma darebbero davvero una marcia in più e potrebbero creare anche posti di lavoro. Certo, guardando quello che accade a Roma con l'inchiesta Mafia Capitale, viene a dire che i problemi d'Italia sono altri, però insomma anche questo è un tema importante. Adesso andiamo a iniziare con i giornali. Prima però vi ricordo i nostri contatti, se volete da subito interagire con noi in tempo reale. Ci trovate su Facebook, la pagina è Si può fare trattino Radio 24, l'account Twitter del programma è @sipoffare24 e il mio @alemaurizzi. Adesso andiamo sui giornali di oggi, vai. Nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, naturalmente grandi titoli sull'inchiesta Mafia Capitale, ma così occupare anche spazio sulle prime pagine dei giornali di oggi e nei titoli dei telegiornali che avete sentito ieri sera, la notizia del declassamento del debito italiano da parte di Standard & Poor's. Questo infatti è il primo titolo del Corriere della Sera. Italia declassata a sorpresa. Standard & Poor's scettica sulla riforma del lavoro. Il governo dice: bocciati, no. Vedremo più avanti anche tutte le reazioni su questo. La vede così sulle 24 ore. Standard & Poor's declassa l'Italia, il rating passa a BBB-. Leggiamo: Standard & Poor's ha tagliato il rating sovrano all'Italia di un gradino, da BBB a BBB-, a causa del debito alto e della crescita debole, rivedendo l'outlook da negativo a stabile in attesa delle riforme. Per l'agenzia americana l'economia italiana uscirà dalla recessione a inizio 2015, ma le stime sulla ripresa del PIL restano modeste. Non è una bocciatura del Jobs Act, commentano fonti di Palazzo Chigi, anzi ci dicono che le riforme vanno bene ma che bisogna andare più veloci. Ricordiamoci che adesso poi, anzi più avanti leggeremo sempre sul Sole 24 Ore un po' di dettagli su questo declassamento. Ricordiamoci però che le agenzie di rating monitorano non tanto le riforme, sì, tengono conto delle riforme, ma monitorano la tenuta, la solvibilità, insomma, del debito che hanno gli stati. Torniamo però sul Corriere per la notizia, diciamo, l'altra grossa notizia, che è questa, che riguarda l'inchiesta Mafia Capitale, i dettagli che stanno emergendo. Roma, ecco gli altri politici nella rete, diamo soldi a una deputata del PD. Leggiamo Fiorenza Sarzanini che scrive: mo se me compro la campana, dice in una intercettazione Salvatore Buzzi, presunto braccio operativo di Mafia Capitale. Secondo gli investigatori si riferisce a chi? A Micaela Campana, deputata del PD, compagna di Daniele Ozzimo, assessore alla casa, dimessosi a Roma nei giorni scorsi. Berlusconi chiede lo scioglimento del Comune di Roma, il PD Orfini, commissario del Partito Democratico a Roma, dice: il sistema ha attecchito anche, anzi soprattutto con lui, cioè con Berlusconi al governo, e a Alemanno sindaco. Quindi, sottinteso, di Orfini c'è poco da chiedere commissariamento adesso. Ma questo è un, insomma, non è ancora chiaro poi come finirà con il Comune di Roma. A proposito, prima di andare sui dettagli dell'inchiesta, vorrei leggere un pezzetto del commento di Sergio Rizzo, sempre sulla prima pagina del Corriere, perché è mette in collegamento questa inchiesta con, ce lo ricordiamo, che abbiamo pagato i debiti del Comune di Roma. C'è un dubbio che oggi, dopo il raccapricciante spettacolo di Mafia Capitale, a maggior ragione ci attanaglia, scrive Rizzo. Siamo sicuri che aver salvato Roma dal fallimento sia stata una scelta giusta? Il commissario al debito Varazzani argomenta che con il dissesto della capitale d'Italia si sarebbe rischiato il declassamento del debito sovrano con relativa impennata della spesa per gli interessi. Pericolo che del resto, vista la nostra situazione economica, è perennemente incombente, e ieri ne abbiamo avuto la prova, abbiamo appena letto del declassamento appunto di Standard & Poor's. Al tempo stesso però non si può né si deve sorvolare sulle conseguenze di quei salvataggi. L'ispettore spedito un anno fa dalla ragioneria dello Stato a far le bucce al bilancio del Campidoglio ha concluso che il commissariamento del debito con gli interessi accollati allo Stato si sia tradotto in un incremento della spesa corrente arrivato nel 2012 a 641 milioni di euro a Roma, il costo di 13.000 dipendenti comunali, per non parlare delle municipalizzate con l'ATAC bisognosa, quella dei trasporti, di continue trasfusioni di denaro, mentre per l'AMA, quella dei rifiuti, già affidata a quel Franco Ponsironi, stipendiato con 545.000 euro, e ora tra i nomi di spicco dell'inchiesta, parlano chiaro le slavine di 1.644 assunzioni e 1.700 stabilizzazioni di precari. E se non c'è la prova che un fallimento avrebbe impedito la corruzione, le ruberie, le malversazioni, di sicuro le avrebbe rese più difficili. Cioè, chiaro il nesso tra il salvataggio di Roma e tutti i soldi che sono stati spesi per salvare la capitale e il fatto che si è continuato a fare queste ruberie a spese dei contribuenti. Allora, ma dicevamo del deputato Campana, chi è costei, citata nell'inchiesta, anche se non indagata, ma sta valutando se dimettersi anche dai suoi incarichi, perché costei, Micaela Campana, ex moglie di Daniele Ozzimo, assessore alla Casa di Roma, indagato e dimessosi, viene citata per un SMS. Bacio, grande capo, ha mandato questo SMS a Salvatore Buzzi, braccio destro del boss di questa mafia capitale che era Carminati. Tutto questo per un finanziamento da 20.000 euro. Campana è una giovane deputata del PD, bersaniana, pugliese di nascita, romana d'adozione, occhi azzurri, bella presenza, una carriera che parte dalla periferia est di Roma, poi l'ascesa verticale da consigliere municipale, responsabile organizzativo del partito, della festa dell'unità, poi arrivano le elezioni, si candida alle primarie, prende un sacco di voti, viene eletta e viene inserita da Renzi nella segreteria del partito con la responsabilità del welfare. Ha fatto sapere insomma a chi gli sta intorno, dice, l'SMS con cui dico bacio grande capo a Buzzi, ma io, dice, dico sempre così, che c'entra? Mi dispiace solo che non c'è l'altra parte dell'SMS, quella in cui Buzzi mi chiede di fare un'interrogazione alla Camera e io gli dico di no. Fatto sta che questi boss arrestati, inquisiti in questa, con un reato grave, associazione a delinquere di stampo mafioso, avevano familiarità con politici di spicco di tutti i partiti, direi PD, PDL, insomma i partiti di governo di Roma. Poi se ci siano reati o altre cose lo stabiliranno gli inquirenti guidati da Pignatone, procuratore capo di Roma, che insomma ha dato una sferzata, sicuramente lo scrivono anche alcuni giornali, a queste inchieste. Altri dettagli sono quelli che emergono sul Messaggero, ma anche su altri giornali, e che riguardano le star, i VIP, insomma persone del mondo dello spettacolo che sono amiche di tutti questi boss inquisiti in questa inchiesta. Belen, Mamuccari, De Rossi, tutte le star amiche dei boss. Ora è chiaro che non sono indagate queste persone al momento, però anche questo fa capire di cosa stiamo parlando. Di cosa stiamo parlando? Del fatto che queste persone chiedevano aiuto a Giovanni De Carlo, che veniva definito sempre in queste inchieste, il nuovo boss di Roma, calciatori, cantanti, presentatori televisivi, anche alcune loro mogli che del miliardario senza reddito né carichi pendenti erano affezionati frequentatrici. Era un uomo che amava la bella vita, scrive il Ross dei Carabinieri, conosceva i migliori locali della movida romana ed era in frequente contatto con personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Infatti non c'è questione che Giovannone, scrive il Messaggero, non abbia cercato di risolvere, non c'è situazione strana nella quale si tenga fuori pur di aiutare gli amici VIP. Per dire, una volta il centrocampista della Roma, Daniele De Rossi, pensa che possa essere utile rivolgersi a De Carlo per una discussione avuta fuori da un locale. Una lite, erano lui e Benatia fuori da un locale, litigano con un tifoso. Allora De Rossi, tutto allarmato, di notte continua a chiamare De Carlo e gli spiega che lo ha contattato per via di questa rissa e gli dice no, perché sai, aveva paura che questo qua aveva chiamato qualche malandrino, qualche coattone. Poi però è arrivata la polizia ed è andato tutto a posto, risponde Giovannone. De Carlo dall'altra parte: hai fatto bene, Daniele. E mostra una grande confidenza con De Rossi: chiamami sempre, amico mio, bravo. Cioè, quando c'è un problema, De Rossi chiama De Carlo, il boss. Poi ci sono telefonate tra De Carlo e Teo Mammucari, che è ossessionato, scrive il Messaggero, dalla forma fisica. Il presentatore delle Iene pensa che Giovannone possa essergli utile per rimediare le sostanze dopanti di cui è alla ricerca. Il componente, l'ormone della crescita, il GH. Il 25 giugno del 2013 chiama De Carlo chiedendogli se si è adoperato per rimediare quelle cose che gli servono. E gli dice, al cellulare lo provoca anche scherzosamente, sostenendo la tesi che un altro compare lo deride. Mi dice che Giovannone chiacchiera, è un chiacchierone, come dire, parli tanto ma non mi trovi questa sostanza dopante, il GH. E De Carlo risponde, ma io sì, lo so, sono un chiacchierone, ma almeno non spiattello i cavoli tuoi in giro, non dico che vuoi diventare Hulk, capito? Cioè, Mammucca ricerca le sostanze dopanti, chiama De Carlo, dice, ma là, me l'hai trovate? No, ancora no, però non ti preoccupare, io non vado in giro a spiattellare tutto, stai tranquillo. Poi ce n'è anche per l'ex compagna di destro, il calciatore della Roma, ce n'è anche per Gigi D'Alessio, che una sera, anzi una mattina, dopo il furto avvenuto nella sua villa a Lolgiata, manda a chiamare De Carlo perché insomma gli hanno rubato 4 milioni di euro, una collezione di Rolex, tutti i gioielli di Anna Tatangelo, e lui è disperato. Oltre a chiamare la polizia, manda a chiamare De Carlo, il boss, per vedere se lui ne sa qualcosa. Questo se ne sono accorti perché stavano pedinando De Carlo, l'hanno visto che è arrivata una macchina a cercarlo, un Audi, che poi è andata a casa di Gigi D'Alessio, e poi hanno capito che c'era stato il furto e lui è stato chiamato per quello. Ieri Gigi D'Alessio ha detto: non ho mai conosciuto questa persona, parlerò attraverso il mio avvocato. Però questi sono fatti per ora. E va bene, adesso c'è il traffico. Prima però vi voglio dare una buona notizia, vai. Ce l'abbiamo? The good news! Eccola qua, abbiamo parlato di rifiuti e ne parleremo più avanti. L'Europa ci ha multato 40 milioni di euro perché ci sono troppe discariche abusive in Italia. Però, come già detto, i rifiuti sono un settore economico che tira. Una corretta gestione dei rifiuti, oltre a un ambiente più pulito, potrebbe creare anche tanti posti di lavoro. È la fotografia fatta dal FISE, l'associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti, che evidenzia come nell'ultimo anno siano cresciute le aziende più 10%, sia cresciuta l'occupazione più 13%, e è cresciuto, nonostante la crisi, anche il recupero e il riciclo degli imballaggi. Più 1%. È questa una delle eccellenze della green economy anche in Italia, che andrebbe spinta ancora di più. E ripeto, stiamo parlando anche di creare occupazione da una corretta gestione dei rifiuti. Altro che multe, questo dovrebbe fare l'Italia. Ci fermiamo, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Si può fare, con Alessio Maurizi, e stavamo leggendo sul Messaggero, insomma, i dettagli dell'inchiesta Mafia Capitale, con la figura di Giovanni De Carlo, detto Giovannone, l'amico dei VIP, andava alle feste, andava nei locali, conosceva tutti, da Belen che lo frequentava, Mammucari, De Rossi, la moglie di Destro, anche altri personaggi, Gigi D'Alessio, che lo manda a chiamare dopo il furto nella sua villa alloggiata, un furto da 4 milioni di euro, da Gigi D'Alessio disperato, oltre alla polizia, non fidandosi evidentemente più di tanto della polizia, ma sperando soprattutto nel fatto che il boss di Roma sapesse tutto di quello che era, diciamo, la criminalità romana, lo manda a chiamare per vedere di recuperare la refurtiva. De Carlo, che a Fregene aveva anche un'ala riservata di un ristorante di cui solo lui possedeva le chiavi e nel quale faceva le sue riunioni. Il reparto anticrimine dei Ross lo scopre il 5 giugno del 2013 durante un controllo all'interno dello stabilimento balneare Miraggio Club a Fregene. Scrivono i carabinieri: viene confermata l'esistenza della sala riservata presso il ristorante, la stessa ricavata all'interno risultava adibita ad un uso privato e delimitata da due accessi, uno interno con porta scorrevole dalla sala ristorante e uno esterno con tre porte finestre che affacciano sulla veranda fronte mare. Un'ala del ristorante è ancora scritto negli atti in cui neanche Filippo Franchellucci, che è il titolare ufficiale, ne possedeva le chiavi. Filippo non ce l'ha le chiavi, conferma uno dei compari intercettato. Le chiavi ce l'ha solo lui. E quindi De Carlo aveva la sua base, almeno durante l'estate, a Fregene, in uno stabilimento balneare. Questo è il quadro, come nei film, come nei romanzi, come nelle aspettative, nell'immaginario collettivo, il boss amico dei VIP che magari non c'entrano nulla, però certo andare in giro con uno così forse si poteva anche evitarlo. Credo che fosse noto in giro cosa faceva De Carlo, soprattutto era noto a chi lo chiamava proprio per farsi aiutare, perché lui era un boss. E quindi adesso questi VIP, queste star, qualche conseguenza la pagheranno, credo, almeno dal punto di vista dell'immagine. Altre notizie dai giornali di oggi. Sul Censis, per esempio, la fotografia di ieri del Censis è passata un po' in secondo piano per via di tutte queste altre notizie di cronaca, però è sempre importante. Italiani impauriti e cinici, non credono nel merito. 8 milioni sono senza lavoro, il 60% teme di diventare povero. Giovani umiliati con impieghi ibridi, scrive il Censis, da noi il peso dato alla famiglia benestante è il doppio che in Europa, cioè ci salviamo perché abbiamo alle spalle le famiglie che ci aiutano. E poi c'è il caso del figlio di De Rita, assunto in un ruolo di dirigenza al Censis. Il nuovo segretario e direttore generale del Censis si chiama Giorgio De Rita, abituatevi a questo nome perché siamo abituati a sentire quello di Giuseppe De Rita, l'anziano capo del Censis. Adesso arriva Giorgio. E sì, non è un'omonimia, scrive Repubblica. Il ruolo di segretario generale è stato ricoperto da suo padre, Giuseppe De Rita, presidente tra i fondatori del Censis nel 74, mentre la delega a direttore generale è stata conferita per 20 anni a Giuseppe Roma, che si è dimesso a novembre. A quel punto il consiglio direttivo ha nominato Giorgio De Rita, appunto, segretario generale con delega alla direzione. Un giornalista, al termine della conferenza ieri al CNEL, nel quale il Censis presentava i risultati, ha sollevato questo potenziale conflitto di interessi, mica tanto potenziale, e De Rita padre si è indignato: non c'è alcun conflitto di interessi, mio figlio ha il curriculum adeguato, è stato amministratore delegato di Nomisma, che è una grande società di ricerca, è stato direttore generale della società che si occupa di digitalizzazione dello Stato, è una persona per bene, sarà, ma è anche figlio del capo dell'ente che lo ha assunto. E questo è un po' un modo per chiudere il cerchio, no? Sull'Italia e anche sul Censis, verrebbe a dire. Il Giorno si incarica di darci un'altra notizia: l'Apo, ci risiamo. Lo sballo, il sesso, un video e il ricatto. L'Apo e Cannes, il rampollo della famiglia Agnelli, sarebbe caduto un'altra volta in una storia di ricatti. La storia è lunga e complessa, la scrive Marinella Rossi con un'esclusiva del Giorno, oggi in edicola. Droga e autoerotismo, l'Apo ricattato, dammi i soldi o vendo il filmato. In sostanza sarebbe stato trovato una mattina seminudo con un cappotto, lui nudo sotto addosso, e da un cameriere, il fratello, il cameriere di un albergo lì di fianco, che lo hanno hanno portato a casa un pomeriggio di droga e autoerotismo, nel quale tutti perdono la testa, ma non uno dei due fratelli che filma tutto. E poi lo ricatta. Uno dei due è stato trovato e arrestato in flagrante con una busta di 90.000 euro che un uomo di fiducia di Lapo El Khan gli aveva appena consegnato per avere in cambio questo filmino. E va bene, va male per Lapo e staremo a vedere. L'inchiesta c'è, queste sono indiscrezioni del giorno. Devo chiudere, non ho ancora 30 secondi, no, non ce l'avevo, va bene. Allora, ci sentiamo subito dopo il giornale radio 800 24 0024, apriremo anche il numero verde, a dopo, ciao! Si può fare, cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, bass. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti, buon sabato. Cari ascoltatori, 800 24 0024, cominciate a digitare il numero verde per intervenire in diretta. E puoi chiamarci, giusto? Certo, mettiamo al vaglio delle vostre opinioni le nostre buone notizie, eh? Vediamo, stamattina parliamo di rifiuti. Bello, rifiuti, ci piacciono sempre. Cioè, no, a noi ci piacciono. Perché noi ne parliamo in un modo per cui in realtà i rifiuti non sono rifiuti, giusto? Oppure, come dice Marco Boschini, tra poco lo sentiremo, i rifiuti non esistono. Addirittura non esistono, e effettivamente se esistono, uno ricicla tutto diventano dell'altro, diventano delle materie prime. Risorse. Esatto, pensa, e io inizio subito con questo tweet, oggi l'hashtag che vi proponiamo è si può riciclare, sbizzarritevi. L'hashtag anche si può fare se volete, soltanto recuperando le bottiglie di plastica di PET. È stato calcolato un rapporto proprio della settimana scorsa, le bottiglie quelle di plastica, queste qua che abbiamo anche noi qua. Faccio anche un effetto sonoro, eccolo, l'acqua gassata di Gabardini al mattino, esatto. Non si sa come fa a berla, soltanto tu puoi bere l'acqua. Volevo fare un errore da pivello, proprio ho detto piglio l'acqua gassata, che mi sembra veramente un errore da pivello in non radio. Andare oltre, esatto. Non andiamo... no, così tutti mi guardano per dire ma quello veramente beve l'acqua gassata per andare in onda, è pericolosissimo. Sì, soltanto recuperando queste bottigliette si possono creare 870.000 posti di lavoro in Europa. Dentro nelle bottiglie però? Anche fuori, intorno. Questo è buono. Tutto quello che ci gira intorno. Scrivete su Twitter, si può riciclare, tutte le idee di riciclo, tutto quello che vi viene in mente su questo argomento. Invece ho visto un bellissimo giochino che c'è su internet, hanno inventato il generatore automatico di tweet di Salvini, che fa piuttosto ridere, nel senso che si va su questo sito e lui in automatico crea un tweet di Salvini, visto che lui twitta moltissimo, diciamo con delle ripetizioni, con delle cosiddette parole chiave, parlando un po' di determinate cose, quindi dopo se l'è presa con i tostapane e il suo problema continuo, diciamo, con i rom, per esempio, tipo quel simpaticone di Renzi tra il silenzio generale ha fatto una legge per abrogare i pezzi di ananas sulla pizza, traetene voi le conseguenze. Beh, però quella di tostapane era l'imitazione di Crozza, o era Salvini? No, è Salvini che l'ha fatto realmente, perché la comunità europea dovrebbe vietare i tostapani per risparmio energetico. No, la parodia di Crozza era il fatto di dire non si potranno mai più mangiare due toste. Bravo. Come faccio io con i figli. In realtà, se la comunità europea decide che bisogna avere un tost singolo, uno ne metterà uno, poi dopo ne metterà un altro. Ormai chi guarda Crozza rischia di avere più informazioni sui personaggi parodiati da Crozza, da lui, che dire all'originale. È verissimo, ne parlavamo tra l'altro settimana scorsa Alessio ed io, della questione anche di Ferrero, e non so se hai visto, Ferrero ha risposto a Crozza con un suo video dove Ferrero imita Crozza che imita Ferrero. Sì. Io non ho mai visto la chiusura del cerchio. Io posso dire, non ho mai visto Ferrero dal vivo in televisione, mai, perché non seguo le trasmissioni di calcio, quelle robe di guardo i gol se posso, ma lui non l'ho mai visto. E Ferrero visto non ne fa di gol? No, tra l'altro, ho visto mille volte l'imitazione e basta. Però ti ha risposto lui praticamente, lui stesso fa un video dove, imitando se stesso, infatti non è il vero... E vado con un altro bellissimo tweet di Salvini. L'Unione Europea, nel silenzio generale, ha fatto una legge per abrogare i collari antipulci di colore Bordeaux, ma questa non gliela lasciamo passare liscia. Ah, fa ridere questo generatore di alcuni si ma fa ridere semplicemente perché prende, diciamo, di petto la questione di prendere un problema minuscolo della comunità europea e farle una vergogna, scrivere tutto in stampatello e dire noi adesso andremo a Bruxelles. L'idea ci sta, l'idea ci sta. Esatto. E va bene, diciamo anche che giocheremo oggi 800 24 00 24 come ogni sabato mattina. Oggi facciamo così, visto che i politici alle domande dei talk show tutti hanno risposto non possiamo fare il nome per il Quirinale perché è troppo presto, c'è Napolitano, aspettiamo prima che dia le dimissioni eccetera eccetera. Allora lo facciamo noi un po', i nomi li diamo noi. Diamo noi, dateli voi ascoltatori liberamente, visto che non abbiamo responsabilità possiamo dire tranquillamente, magari viene fuori qualche idea originale, visto che si cerca disperatamente nella società civile perché i politici ormai sono impresentabili anche per i politici stessi. Allora fate voi qualche nome per il vostro Toto Quirinale. E diciamo che non vale da noi la solita regola che è i nomi che vengono fatti molto prima di solito vengono fatti per essere bruciati. No, noi siamo interessati spassionatamente, siamo interessati, vogliamo lanciare, cioè è stato detto Muti che poi ha detto fatemi continuare a fare il mio lavoro. Non so, si potrebbe dire Umberto Veronesi, certo, tra i grandi della scienza italiana, oppure, ma secondo me si può, io direi, visto che stiamo per adesso, siamo ancora in una fase preparatoria, ci si può anche, si può spaziare, allargare. Sì. Cioè uno può anche decidere tipo Paperino, giusto? No, Paperino. Sì, secondo me anche personaggi di fantasia. Vabbè. Sì, sì, non so. Così per dare un messaggio. Sì, comunque. Leonardo da Vinci, per esempio, che purtroppo non credo che ce la farà questo giro. Napoleone, allora. Beh, io tra i due preferisco Leonardo da Vinci. Vabbè, tu segui questa linea. Io seguo una linea, diciamo, più verosimile. Si parla di Vittorio Feltri. Qualcuno dice Vittorio Feltri. Vittorio Feltri è verosimile. Salvini pare preferisco che voglia Paperinic, candidare, direi. Oppure, che ne so, nel mondo del calcio, vi piace di più Trapattoni o Dino Zoff? Dai, sono figure. Come presidente Dino Zoff, Dino direi Zoff. Che non ci sono dubbi. Fra Trapattoni, con tutto il bene che però ci sarebbero due figure straordinarie. Vabbè, basta, Zoff non andiamo oltre. È più un padre, diciamo. 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi anche su questo, cari ascoltatori. E come sempre, ogni sabato mettiamo in palio qualche cosa. I biglietti e il catalogo per la mostra di Chagall a Milano. Iniziamo? Sì, signori, iniziamo. Ma abbiamo già iniziato, no? Sì, sembrava che non avessimo iniziato. Riniziamo. In realtà, abbiamo già iniziato. Ma riniziamo. Via. Usato ad asca vuoi gommas plamieras televisois su mantalla fue su scaldapagno. E questa è Claudia Aru con Rifiuti Zero, una canzone divertente in sardo, si intuisce qualcosa, tu hai capito un po'? Qualcosa? Un pochino, all'inizio pensavo fosse portoghese, poi ho detto ma non mi sembra portoghese, mi sembra più sardo. C'è qualcosa che richiama il portoghese, sì, nel sardo sicuramente. Rifiuti Zero, questa simpatica canzone, per introdurre l'argomento abbiamo detto parliamo di rifiuti, ne parliamo con Marco Boschini, coordinatore dell'associazione Comuni Virtuosi, autore del libro I Rifiuti Non Esistono. Ciao Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Ben ritrovato. Partiamo naturalmente, Marco, dalla notizia della settimana, che è questa multa che l'Italia ha ricevuto per la questione delle discariche abusive, insomma per la non corretta gestione dei rifiuti in Italia. Il ministro dell'Ambiente Galletti ha tranquillizzato dicendo non state tranquilli, non pagheremo un euro di questi 42 milioni di euro che ci vengono chiesti. Che è una risposta molto italiana, posso dire. Cioè, sì, non se la meritiamo o non meritiamo una multa, ma intanto non la paghiamo. Vabbè. Scusami, non volevo interromperti. No, lui voleva dire che stiamo risolvendo tutti i problemi, ha citato anche un po' di dati. Marco, intanto perché abbiamo ricevuto questa multa? Abbiamo ricevuto la multa perché le discariche che sono entrate sotto l'occhio, diciamo, del ciclone non rispettano i parametri di sicurezza e di salubrità che la comunità europea ci ha dettato, ma io aggiungo che riceviamo la multa perché continuiamo a gestire la partita, la complicatissima partita dei rifiuti con una logica novecentesca. Noi dobbiamo guardare al futuro, il futuro non è certo nelle discariche, negli inceneritori. E dove sta invece il futuro? Lo dice anche l'Europa, insomma, ci sono delle direttive che danno la direzione appunto di marcia, cioè bisogna riciclare, bisogna recuperare, come? L'Europa nelle ultime direttive parla addirittura della cosiddetta economia circolare, ci chiede di arrivare a un riciclaggio del 70% dei rifiuti urbani e dell'80% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030. Significa proprio andare oltre alla logica che c'è dietro le discariche e gli inceneritori, partendo da come si producono le cose per arrivare a valle, come si riciclano, si riutilizzano, si riusano da parte degli enti locali, ma anche quindi dei cittadini, delle imprese che stanno in una comunità. Nel tuo libro, I rifiuti punto di domanda non esistono, parli proprio di come i rifiuti potrebbero non essere più un problema, ma anzi appunto come stavi già evocando, una opportunità. Questo accade già in alcuni luoghi d'Italia, dove addirittura i rifiuti diventano una materia prima, insomma, che fanno incassare anche i comuni, cioè che si pagano tutti i servizi di raccolta e anzi forse addirittura ci si guadagna qualcosa. Come funziona e quali sono le eccellenze che ci sono in Italia sottotaciute spesso, di cui non si parla? Guarda, il libro l'ho scritto insieme a Ezio Ordes, che io non ho timore di definire il miglior assessore dell'ambiente d'Italia. E lui opera da ormai 10 anni nel comune di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, 9.000 abitanti, dove da 5 anni vincono il premio come miglior comune riciclone d'Italia. È una delle esperienze più forti a livello europeo. Ti do qualche dato: 91% di raccolta differenziata, quando la media nazionale non raggiunge 40, una produzione pro capite di rifiuti che non arriva a 30 kg, quando la media italiana viaggia tra i 5 e i 600 kg all'anno a testa. Una diminuzione dei costi, perché con il sistema porta a porta spinto loro hanno dimostrato che i costi diminuiscono, non aumentano come c'è sempre stato raccontato, intorno al 15%, delle tariffe rifiuti che sono mediamente il 10% in meno rispetto a quello che è la media nazionale. Tutto questo creando più posti di lavoro e riducendo l'impatto ambientale. È un'esperienza molto forte. L'obiezione solita che si fa è: sì, vabbè, Ponte nelle Alpi è un piccolo comune. Nel libro raccontiamo l'esperienza del consorzio Priula, un consorzio di comuni che opera e gestisce la raccolta differenziata per tutta la provincia di Treviso, compreso il comune capoluogo. Parliamo di 500.000 di abitanti serviti da questa azienda, che ha raggiunto l'84% di raccolta differenziata. Questo per dire che le cose ormai si possono fare veramente dappertutto. Marco, nel tuo libro si capisce che la strada che secondo te è quella da percorrere, secondo, insomma, analizzando queste esperienze positive, insomma, sarebbe quella di, come dire, di non affidare spesso a delle aziende esterne ai comuni il servizio di raccolta, perché spesso questi contratti sono poco flessibili, sono magari hanno una durata decennale e invece, e quindi diciamo hanno, come dire, una rigidità necessaria, implicita, e invece la raccolta dei rifiuti è un'attività che necessita di flessibilità, si va dal porta a porta alle isole ecologiche, magari in un pezzo di quel comune c'è una strada particolare per cui ci si deve arrivare in un certo modo, eccetera. Quindi quando noi sentiamo parlare di taglio delle municipalizzate dove ci sono sprechi pubblici, eccetera, cioè si rischierebbe in quel caso di buttare via il bimbo con l'acqua sporca, cioè di chiudere esperienze positive di riciclo dei rifiuti? Assolutamente sì, qui non è una battaglia tra pubblico contro privato e viceversa. Il nostro ragionamento è un ragionamento molto pragmatico e concreto. Non stiamo qui a difendere l'indifendibile. In Italia siamo pieni di società pubbliche che hanno prodotto e producono, lo vediamo anche in queste ore, sprechi, privilegi, corruzione e quant'altro. Quello che noi chiediamo è di saper discernere quelle che sono le cattive esperienze dalle eccellenze che vengono prese a modello in giro per l'Europa. Noi abbiamo esperienze locali che vengono visitate quasi settimanalmente da gruppi di amministratori e imprenditori da tutto il mondo. Allora noi diciamo: attenzione, le cose che funzionano non solo salvaguardiamole, ma facciamole diventare un modello. Le esperienze che raccontiamo nel libro dimostrano che laddove c'è una gestione pubblica efficiente, efficace, trasparente, onesta, i risultati si ottengono e sono maggiormente flessibili, perché rispetto al privato hanno un vantaggio enorme che non devono fare gli interessi dei proprietari, ma prima di tutto fanno gli interessi dei cittadini, e poi dopo ovviamente devono anche sostenersi economicamente, e si sostengono. Tra l'altro voglio dire che un'altra notizia è questa, no? Tanto per dire dove si può andare, la direzione nella quale si può andare quando parliamo di rifiuti. In Inghilterra è stato inaugurato il primo autobus che funziona diciamo recuperando gli escrementi, usiamo una parola diciamo pulita, un argomento pulita ma non pulitissima, che sostanzialmente va a biometano. È successo giovedì 20 novembre, l'autobus che collega l'aeroporto di Bristol nei dintorni, e qui insomma se ne possono fare di cose con i rifiuti. In Italia ci sono anche delle eccellenze, perché un altro rapporto recentemente in questi giorni, Marco, ricordava che ben 7 regioni italiane hanno superato il 50% di raccolta differenziata. Ci sono città che sono delle eccellenze, tu hai citato Ponte alle Alpi, Capannori, ma ci sono anche Milano e altre. E poi ci sono punte bassissime tipo Palermo, Napoli, Reggio Calabria. Come mai c'è questa grossa differenza secondo te in queste zone d'Italia? Ma perché c'è un ritardo culturale prima di tutto rispetto a tutto quello che è il dibattito sulla sostenibilità in Italia, che poi provoca ovviamente delle classi dirigenti inadeguate, non necessariamente appunto corrotte o sprecone o chissà quale altro retropensiero, ma semplicemente abituate a governare i problemi in un certo modo da troppo tempo, e quindi non hanno la curiosità e la capacità e l'umiltà anche di guardarsi intorno rispetto ad esperienze che funzionano. Finalmente in Italia alcune città di medie dimensioni stanno dimostrando anche loro che si può andare in un'altra direzione. Ho citato Treviso, posso citare Trento, posso citare Parma, realtà di 100, 200, 300 mila abitanti che cominciano a dimostrare che si può andare in un'altra direzione. Esperienze virtuose ci sono anche fuori dalle istituzioni. Nel libro noi raccontiamo questa straordinaria avventura di questa azienda che si chiama Dismeco, che recupera i nostri RAE, i rifiuti tecnologici, dalle lavatrici ai monitor dei computer, alle televisioni, ai neon, e sono un'eccellenza a livello europeo. Sono stati chiamati dalla comunità europea a raccontare come fanno a riciclare il 99% di una lavatrice. Questa gente non sono dei pericolosi tupamaro cocomitati che vanno a combattere con le pietre in mano. È gente che fa affari in trasparenza e che dà posti di lavoro utilizzando la cosiddetta green economy. Le cose ci sono, basta guardarsi intorno e farle diventare un modello. Grazie Marco Boschini dell'associazione Comuni Virtuosi. Si può riciclare, è l'hashtag che abbiamo scelto oggi per aprire questa discussione. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille. Buon sabato. Grazie a voi. Grazie. Trovo bellissima questa cosa di dire Ezio Orzes è il miglior assessore d'ambiente d'Italia, perché forse bisognerebbe iniziare a fare una classifica. Sì, nomi e cognomi. Sì, di modo che uno dice: ma forse dobbiamo, un po' come nelle squadre di calcio, forse dobbiamo acquistare il miglior assessore da un'altra città e usarlo, perché la cosa che volevo infatti, e metterlo ministro. Sì, cioè, nel senso che se uno non ha la fortuna di avere il miglior assessore d'Italia, che cosa può fare come cittadino? In realtà Marco ci stava spiegando che ci sono altre possibilità, nel senso che ci si può mettere insieme come associazione e risolvere il problema, diciamo, dal basso invece che aspettare che lo faccia l'assessore. 800 24 00 24, cari ascoltatori, aspettiamo anche i vostri interventi per, se ci volete segnalare, che ne so, nel vostro comune, se ci sono invece, come diceva l'Europa e per questo ci ha multato, delle discariche abusive, facciamo lo sfogatoio, oppure se invece ci sono esperienze positive di raccolta differenziata, che ne so, per esempio il porta a porta, che è una cosa che non è una cosa che fa Bruno Vespa, non è un'altra cosa, o anche se volete segnalarci se avete a casa vostra l'assessore migliore di questo, se volete candidare un altro assessore alla classifica miglior assessore all'ambiente d'Italia. 800 24 00 24, tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Cam camini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. cam camini, cam camini, spazza camin. La sorte è con voi se la mano vi do, chi un bacio mi dà felice sarà. Tu penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Cam camini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini, spazzacamin, la sorte è con voi se la mano vi do. Abbiamo cercato nel, diciamo, tra le notizie, qualche buona notizia che avesse a che fare con il mondo dei rifiuti. Abbiamo trovato questa notizia che viene da Napoli: un percorso di reinserimento per senza fissa dimora, ribattezzato Spazza Cammino, nel quale 12 persone senza fissa dimora sono state impiegate nella pulizia dei marciapiedi delle strade di Napoli in cambio di un percorso di reinserimento sociale. È questa una bella storia che viene da Napoli. Ne parliamo con Sergio D'Angelo, direttore del gruppo di imprese sociali GESCO. Buongiorno. Buongiorno a loro. Buongiorno. Le è piaciuta l'introduzione musicale? Molto graziosa, sì. Beh, del resto il nome che avete dato a questo progetto, diciamo, era invitante. Spazza Cammino, di che si tratta? Beh, lei l'ha anticipato, insomma, abbiamo per la prima volta fatto il contrario. Noi siamo abituati al fatto che le città possono organizzare la solidarietà da indirizzare verso persone in difficoltà. Questa volta ci siamo posti il problema di organizzare la solidarietà di 12 persone in difficoltà perché potessero realizzare un progetto da mettere a servizio della città, una città che sta in difficoltà come tutte le grandi città e le aree metropolitane, perché non riesce sempre puntualmente a mantenere le strade pulite. E quindi abbiamo realizzato due obiettivi importanti. Intanto abbiamo ridotto le distanze tra la gente comune e senza dimora, che badate, sono persone che mancano non solo la casa, insomma, senza dimora non ha più niente, non ha più gli affetti, non ha più la casa, non ha più un lavoro, insomma, e le persone nelle città vivono talvolta con fastidio, insomma, la presenza di senza dimora, insomma, perché li accostano, come dire, a problemi di sicurezza, di degrado, di abbandono, nella migliore delle ipotesi li accostano a percorsi assistenzialistici, insomma, verso i quali percorsi a volte appunto si nutre fastidio quando poi non succede anche di peggio, come nei giorni scorsi è accaduto a Milano piuttosto che a Bologna, a Roma, ma anche nella stessa nostra città vi sono episodi di intolleranza livorosi nei confronti di Rom, di immigrati e di senza dimora. Quindi abbiamo ridotto le distanze perché in questo caso abbiamo consentito l'avvio di un percorso di autonomia economica di queste persone che si affrancano dai percorsi assistenzialisti, superano una condizione di abbandono e soprattutto, diciamo, stabiliscono un rapporto di grande empatia con i cittadini e con i commercianti perché rendono un servizio che tutti possono verificare e apprezzare. Ma come funziona? Nel senso che loro decidono di pulire le strade e in cambio hanno uno stipendio? Oppure è semplicemente allora, il fatto... Prego. Sì. Questa iniziativa si autofinanzia, non è sostenuta da risorse pubbliche, anche in questo caso insomma si realizza un risultato assolutamente inedito, perché a sovvenzionare questa attività sono gli stessi commercianti che aderiscono a questa iniziativa e sottoscrivono una quota mensile, perché il regolamento comunale della nostra città, ma come di tutte le città, prevede che siano i commercianti a pulire la zona antistante al proprio, certo, al proprio negozio. E quindi è un servizio che fanno ai commercianti i senza fissa dimora? Sono tutti contenti perché lo sono i commercianti, ma lo sono, certo, anche i cittadini che abitano in quel territorio. Mi sembra un bellissimo progetto di reintegrazione, nel senso anche sul territorio. Con questa sperimentazione siamo partiti appena ieri e la cosa ha suscitato non solo molto interesse e curiosità, ma anche molto apprezzamento da parte della gente, ma in due mesi contiamo di concludere questa prima sperimentazione e quindi stabilizzare questa prima questo primo progetto e ripetere questa esperienza con altrettanti 12 senza dimora in altri quartieri della città. Insomma, siamo molto ambiziosi da questo punto di vista, riteniamo davvero che ci sia spazio per un'iniziativa importante che possa mettere insieme qualche centinaio di senza dimora, insomma, che di 12 in 12 decisivo alla qualità dell'esistenza e dei servizi di questa città. Senta, ma naturalmente è chiaro il valore anche sociale, lei l'ha detto benissimo, di questo progetto, ed è il valore aggiunto sicuramente, ma lei pensa che questa cosa possa essere visibile anche in termini proprio di pulizia della città, cioè che possa avere un effetto positivo, magari si è esteso anche ad altre persone, per tenere più pulita Napoli, quindi avere anche una ricaduta proprio sull'argomento a cui siamo partiti, cioè rifiuti? Non abbiamo avuto modo di verificarlo fin da ieri stesso. Insomma, noi siamo partiti con questa sperimentazione nella parte più storica della città, e quindi i decumani inferiori e superiori, via Toledo, insomma, le strade più frequentate in questo periodo, in base peraltro da centinaia di migliaia di turisti, e diciamo il beneficio del contributo da loro lato si vede. È immediatamente misurabile. Peraltro, benissimo, sì. Non ci mettiamo in concorrenza con il servizio pubblico, ma in qualche modo contribuiamo a potenziare la capacità. Ma non penso che nessuno comunque si offenderebbe questo momento, se anche si mette in particolare concorrenza a Napoli. Esatto. Senza offese, naturalmente. Grazie per essere stato con noi, a grazie Sergio mille. D'Angelo. Buona giornata. Buongiorno, grazie. 800 24 00 24, questo era Spazza Cammino a Napoli. L'hashtag che abbiamo scelto stamattina per parlare della questione dei rifiuti è: si può riciclare. Ma aspettiamo i vostri interventi anche numero verde, anche sul Quirinale. Anche sul Quirinale, potete usare l'hashtag si può Quirinare, direi così. Si può Quirinare. No, perché con 4 R te non si capiva, esatto, nulla. Si può, esatto, Quirinare, lo dico io. Vai. Traffico, sì, poi si torna. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora sentiamoli subito gli ascoltatori. Vai con Michele che ci chiama da Brescia. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Ascolti, ecco, siccome ho visto che volevate sapere quale poteva essere il nostro possibile futuro presidente della Repubblica, sì, sì. Ecco, secondo me io vorrei un presidente da sogno, nel senso. Da sogno o da sogno? Da sogno, sì. Sogno. Nel senso, gli Stati Uniti hanno avuto Barack Obama. Pensi se noi potessimo avere Roberto Saviano? Non potremmo, perché è troppo giovane. Roberto Saviano. Non si può, no, non si può. C'è il limite di età, no, dai. Quindi 50 vabbè, anni. Stiamo dicendo che dobbiamo sbizzarrirci, che vale anche Paperinic, varrà Roberto Saviano, direi. No, vale Paperinic, come... l'hai detto tu. Saviano, Michele. Sì. Vale come, diciamo, così come idea, come ispirazione, non come nome concreto, perché non ha 50 anni. Beh, però sarebbe un bel messaggio, verso i politici, verso la mafia, la 'ndrangheta, che mi sembra che... Sì. Secondo me quando ci saranno le votazioni qualcuno scriverà Saviano sulla scheda. Uno che fa sempre effetto, sì. Diciamo. Va bene, grazie Michele da Brescia. Beh, è vero che insomma accettiamo anche risposte così, sì. Anche se non so, perché stamattina vogliamo aprire un discorso, una rosa, poi vogliamo premiare anche la direzione di marcia, l'idea, il simbolo che rappresenta il candidato. Esatto, no? Direi questo che è sì. Più su quello, non è che stiamo veramente, sì, proponendo, no, qualcuno anche perché per poi forza. Noi premiamo la risposta, più che dà la direzione, sì, più interessante. Tanto via SMS, dove potete anche mandarci le vostre proposte, che è al 349-238-6666. Qualcuno ha già scritto? Sì, propongono Caselli. Mi piace molto questo Paolo che invece scrive: buongiorno, dopo 43 anni di lavoro, tra qualche mese andrò in pensione, avrò tempo libero, sono un buon oratore, mi candido come presidente. Per carità, Saviano, chi è? Scrive un ascoltatore anonimo, sempre al messaggio. Anonimo, sottolinei che ti stai chiedendo anche chi sei tu? Sì, esatto. Maria Teresa da Pavia, buongiorno. Allora, io volevo proporre Bisio, l'attore, perché si era già esercitato in questo ruolo in un film. Claudio Bisio, come no? Lo salutiamo intanto, però forse averlo fatto diciamo come attore non è sufficiente, o ci accontentiamo di un'interpretazione? Sì, se l'ha già esercitato bene. Vabbè, allora anche Crozza, gli attori come anche politici. Crozza, direi che lo candidiamo così di default. Va bene, così sì. Non cambiamo. Adesso però non mi bruciare altri candidati possibili, perché se li diciamo tutti noi gli ascoltatori non chiamano. No, scherzo. Grazie Maria Teresa. Grazie a lei. Vabbè, Claudio Bisio è un po' buttata lì così, però le piaceva Bisio. Ottimo. Piacerebbe Bisio a te? Ma è un amico, quindi che cosa vuoi che dica? Ce l'ha 50 anni Bisio, sì. È un amico, quindi io non rispondo nemmeno su questo. Giuliano da Modena, buongiorno. Giuliano? Giuliano è già al Quirinale in coda. È caduta la linea con Giuliano? Salvo da Catania, allora. Salve. Salve. Buongiorno. Allora, io volevo intervenire sul problema dei rifiuti. Sì. Io sono un operatore del settore e nel paese dove opero c'è la raccolta differenziata. Volevo segnalare appunto che la raccolta differenziata, il porta al porta, ecco, più che raccolta differenziata, non è che dà molti frutti. Perché? Perché essendo che non si fa la selezione, cioè gli operatori non fanno la selezione ma solo la raccolta porta a porta, la selezione viene lasciata agli utenti, molte volte quando si va poi a conferire viene respinto con un aggravio di spese notevoli per l'ente, per il comune. Ebbene, bisogna educare i cittadini affinché invece... Guardi, non è facile. No, non lo è per niente. Però, scusi, ma Salvo, a noi ci piacciono le cose difficili. Scusi, Salvo, una domanda però, perché quello che lei ha detto è chiaro. Col porta a porta la selezione la fanno i cittadini e si rischia di più. Però anche quando non c'è il porta a porta, ma ci sono i cassonetti che poi vengono ritirati comunque sempre dall'azienda, anche lì è il cittadino che poi deve infilare nel cassonetto giusto il rifiuto giusto. Quindi alla base c'è sempre quello. No, ma è per quello che la proposta che facevo è quella che l'ente deve, secondo me, diventare... Cioè, deve entrare in casa del cittadino e... Allora, la scrematura la fa sì. il cittadino a casa. Dopo l'ente, invece di andare a conferire, la seleziona, quindi evita di andare a fare il porta a porta con un aggravio di spese notevole, perché girare con motoapi, cose in giro, quindi carburante e cose varie... Va alla selezione, quindi con delle mini isole, dal lavoro, e a quel punto il materiale che è proprietà dell'ente, del comune, lo va a rivendere attraverso i sistemi, i canali di vendita. Grazie Salvo, siamo in chiusura, abbiamo il giornale radio, io non ho capito benissimo quello che suggerisce Salvo, che tra l'altro è un operatore nel settore, magari qualche ascoltatore ha capito meglio e ci spiega. O magari qualche dopo. Assessore che così... Sì, allunghiamo la classifica degli assessori. Esatto. Giornale radio, ci troviamo subito dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Another tree where the grass don't grow. We made a promise to never get old. You had a chance and you took it on me. And I made a promise that I couldn't keep. Questo è il nostro Si può fare in musica, era The Days di Avicii. E la canzone scelta e proposta dalla nostra ascoltatrice Giovanna Di Pace. Vi ricordiamo a tutti che potete consigliarci il vostro Si può fare in musica, che poi noi scegliamo e facciamo ascoltare durante la trasmissione. Lo potete fare sui nostri account social, sul nostro Facebook oppure sull'account Twitter di Si può fare, che è @sipuofare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @carlogabardini e il mio è @alemaurizzi. Esattamente. Fatelo subito. A proposito di social, volevo anche ricordare che oggi non ho postato la mia solita foto che metto su Instagram, sul mio account, che è sempre @carlogabardini, perché ero in ritardo e quindi non hai avuto il tempo neanche di fare la foto. Esatto, volevo, in realtà ero in ritardo, timoroso. È venuto giù anche un acquazzone, non ho preso il motorino. Scuole l'altra volta, sì, avevo molta paura. Allora, voglio leggere un tweet. si può riciclare l'hashtag che abbiamo lanciato. Abbiamo detto Ezio Ortles è il migliore assessore all'ambiente di Ponte delle Alpi, lo ha detto Marco Boschini qua ai nostri microfoni parlando di rifiuti. Ci risponde PL 1952 con la classe dirigente che subiamo, anzi no, aspetta, l'altro, questo qua, c'è chi vuol bruciare questa ricchezza, i rifiuti, per far arricchire pochi compagni di merenda. Si riferisce credo al discorso degli inceneritori piuttosto che al riciclo, no? Alla raccolta differenziata. Oppure c'è Artemisia che dice se con le bottiglie di plastica si possono creare 870.000 posti di lavoro in Europa, questo l'avevo scritto io, dice pensa coi soli tappi quello che si può fare. Beh, meno immagino, perché un tappo è meno, ma sai che c'è tutta una raccolta dei tappi per dare in beneficenza, certo. Questa è un'altra cosa, sì, ma non ho mai capito se è vera quella lì, perché un tempo si diceva, sì. Anche le linguette delle lattine lo fa anche il mio collega Dario Ricci. Ah sì? Raccoglie i sacchetti, poi li va a dare. Sì. Ah, perfetto. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un po' di retweet. Si può riciclare, si può tappare quello che volete, se vogliamo tappare, parlare. Si può fare un sacco di cose. Toto Quirinale 800 24 00 24. Questa mattina la risposta più interessante, più originale, diciamo più bella, la premieremo con i biglietti e il catalogo della mostra di Chagall a Milano. Abbiamo Lamberto che ci chiama da Firenze. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Mi faceva piacere, anche se è un sogno e mi rendo conto che come i sogni talvolta non si avvicinano, proporre Emma Bonino, perché donna, perché è onesta e lo ha dimostrato in tanti anni di presenza politica, perché ha una credibilità internazionale e da tanti anni che si occupa di sociale, di immigrazione, di problemi di integrazione, e perché credo che quando si tocca il fondo non si faccia, come dicevo mio amico, si comincia a scavare, ma bisogna darsi uno slancio per ritornare sulla superficie. E penso che un nome così pulito, una faccia così onesta in un momento drammatico come questo sia ciò di cui abbiamo bisogno tutti per credere nella nostra Italia. Ma secondo lei, mi sembra un'ottima proposta, secondo lei come mai non ce la fa mai? Perché è un tutte sogno le ricorrente volte... questo, esatto, per restare tutte, alla sua... tutte le volte che si parla di Presidente della Repubblica, soprattutto che si inizia a dire forse è la volta buona che per una donna potrebbero aprirsi le porte del Quirinale, si fa il nome di Emma Bonino e poi invece non ce la fa. Non lo so, se dovessi fare come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, è perché non ha e non cerca sponsor politici di convenienza. Ma certo, è i radicali si sa che sono così. Pulita, sì. Onesta, e purtroppo in un mondo di persone un pochino così, un pochino equivoche, i puliti e gli onesti non hanno molta fortuna, perché ufficialmente sono tutti fantastici e che poi sotto sotto si va a cercare connivenze più che espressioni così. Quindi è questo, se però dovesse vincere io penso che ci sarebbe un boom nella volontà di rinascere, di crescere, un boom nella borsa, un boom. Va bene Lamberto, devo dire grazie. Credo che comunque riscuoterebbe abbastanza un largo consenso tra gli italiani un nome come Emma Bonino, sicuramente, perché Sicuramente finché si fanno le proposte, sì. Diciamo. Beh sì, siamo qua per ora, certo. Andrea da Treviso, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego. Allora, io mi aggancio un attimo al discorso della candidatura alla presidenza della Repubblica. Io metterei Giannino, che è uno che sa fare bene i conti, sa fare i conti. Oscar della Giannino, bestia, il nostro Oscar Giannino? Il vostro Oscar Giannino, nostro. Glielo diciamo fra poco. Sì, tra un po' arriva alle 10, glielo esatto. Diciamo. Va bene. Comunque, a parte questo, quello di cui volevo parlare era un attimino il discorso di oggi sul riciclo dei rifiuti. Io vengo da un piccolo comune della provincia di Treviso, che fa parte di quella cerchia di comuni ricicloni d'Italia, e porto un esempio che è quello delle isole ecologiche, dove due giorni alla settimana c'è la possibilità di andare a portare i rifiuti un po' più ingombranti, un po' quelli che non si riescono magari a portare grazie alla raccolta porta a porta che comunque abbiamo. Tipo un frigorifero. Esatto. Sì. E ci sono un sacco di persone, volontari che fanno parte magari o delle proloco, ma anche semplici cittadini che danno il loro tempo per aiutare le persone che arrivano con i rifiuti a smaltirli nella maniera corretta, quindi scegliendo il giusto cassone dove svuotare, vetro piuttosto che plastica, piuttosto che metalli, piuttosto che qualsiasi altra cosa, controllando che venga fatto tutto in maniera corretta. E questo è un servizio che aiuta ad avere una grandissima efficienza da un punto di vista della selezione dei rifiuti, del recupero dei rifiuti, ed è, diciamo, e di insegnare anche a farlo bene, direi. Ma non ho capito una cosa, Andrea: sono gestite da questi volontari oppure sono gestite dal personale affiancato poi anche da qualche volontario? L'isola ecologica è comunale, nel senso, è proprietà del comune, e però oltre ad avere magari sempre una persona, un dipendente comunale che è lì, che fa appunto questo servizio, ci sono sempre 2, 3, 4 persone che sono volontari, delle prologue, normali cittadini, che danno il loro tempo e aiutano, c'è perché sono preparati, in più, perché hanno fatto di cose, e aiutano in maniera assolutamente gratuita le persone a fare molto bene il compito di differenziazione. Ecco. Grazie Andrea. È un senso civico, una questione di mentalità. Voglio commentare questa cosa del senso civico, perché ci sarà sicuramente qualcuno all'ascolto che dice: sì, vabbè, ma deve essere il comune, deve essere lo Stato a garantire il servizio, siamo alle solite, no? Ma che perché ci devono essere volontari? Sì, sicuramente, però perché dobbiamo impedire a qualcuno che lo vuole fare, che vuole partecipare, che vuole dare una mano? Magari puoi trovare un modo per gratificarli anche economicamente, con un buono pasto, come si fa con i nonni che fanno attraversare la strada di fronte alle scuole, certo, o piccole cose così, però va bene anche quello. Cioè, questa questione riguarda tutti, quindi il fatto di essere volontari è anche un fatto che poi ha un ritorno, tutto ha un ritorno, questo, un ritorno anche economico, anche sulla propria comunità, esatto, e su noi stessi, per cui ben venga. 800 24 00 24, facciamo un'altra telefonata velocissima prima del traffico. Francesco da Verona. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Niente, volevo partecipare al Toto Quirinale. Vai. Allora, avrei, diciamo, un nome istituzionale. Spara. Luca Cordero di Montezemolo. Sì. Che insomma potrebbe rappresentare, penso, l'italianità, no? È stato presidente della Ferrari. Già la rappresenta adesso, perché con la presidenza dell'Alitalia, esatto, rappresenterà un bel pezzo di Italia all'estero. Quindi, diciamo, l'idea di prendere un manager che è conosciuto all'estero, per esempio, per essere stato, diciamo, il volto associato alla Ferrari per tanti anni. Sì. È più facile essere associati alla Ferrari che all'Italia, direi così. Sì, mi immagino qualcuno con un ritardo. Esatto. E poi oltre al nome istituzionale, uno più divertente. Vai. Sarebbe curioso vedere Ferrero. Ferrero. Però questo fuori concorso, perché lei, cioè, noi possiamo dare un nome per partecipare al concorso. Ma Ferrero Sampdoria o Ferrero Nutella? Ferrero Sampdoria. Va bene. Ma se lo immagini Crozza che fa Ferrero presidente. Beh, Crozza fa già l'attuale presidente, quindi diciamo quello sarebbe l'unico elemento di non novità. Grazie mille. Grazie a voi, ciao. Buona giornata. Ok, ci fermiamo allora per il traffico e torniamo tra un attimo. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, ancora un paio di tweet sul Toto Quirinale. Massimo Lalla, Massimo 197 su Twitter, scrive: professor Settis, così magari si rallenta il consumo del suolo. Bene, bene, sarei d'accordo anch'io su Settis. Poi c'è Francesca 61 Scacorte su Twitter, il suo account, scrive: che ne pensate del professor Domenico De Masi per il Toto Quirinale? A me sembra persona integerrima. Presente il professor De Masi? Sì. Piace, ha un suo seguito. Ha un suo seguito. L'Abonino impazza invece sui nostri SMS qua a Radio 24 e qualcuno ha anche proposto Barisoni per la voce. Solo per la voce? Beh, insomma, per il momento l'SMS è arrivato per la voce, poi non lo so. Poi c'è anche Tex Wheeler che è arrivato. Ah, non l'ho visto. Nando dalla Chiesa pure, sempre all'SMS. Ma è Nando dalla Chiesa che propone Tex Wheeler? No, sono due proposte diverse. Esatto, andando alla Chiesa come presidente, insomma, come Toto Quirinale anche in questo caso. Pietro da Roma all'800 24 0024. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io volevo intervenire sulla questione della separazione dei rifiuti di cui avete parlato poco fa. Sì. E per dirvi, ho lavorato un po' nel settore, anche se nella comunicazione, quindi conosco un po' il problema. Che dove? A Roma? No, in giro per l'Italia, lavoravo per uno dei consorzi CONAI, quindi facevo promozione un po' in giro per l'Italia. Sì. E quindi conosco un po' il problema, che effettivamente, come diceva quell'ascoltatore di poco fa, la qualità della raccolta differenziata, che fino a che non fai delle buone iniziative di sensibilizzazione e di educazione delle persone, può dare dei risultati, diciamo, modesti. Il problema si pone perché gli operatori che devono poi recuperare quel materiale hanno bisogno di materiale selezionato, cioè di materiale che non abbia altri materiali mischiati dentro. Addirittura, certo. È vero che bisognerebbe, che ne so, pulire la bottiglia della conserva di pomodoro? Quello è prevalentemente per problemi igienici. Sì, no, ma anche proprio per favorire il recupero, cioè il materiale casi, dovrebbe essere tendenzialmente per favorire anche il recupero, pulito, esatto. Sì. Sì. Possibilmente e soprattutto separato. Perché evidentemente l'acciaio non è la plastica e non è il vetro. Addirittura in alcuni paesi separano anche i colori del vetro. Il vetro bianco, il vetro delle bottiglie di birra, il vetro delle bottiglie... Però diventa veramente complicato anche il colore. Non è... Allora, il problema si ovvia proprio se si toglie la responsabilità dalle famiglie e la si sposta a quegli appositi impianti di selezione, che pure esistono in Italia, ce ne sono. Sono impianti elettromeccanici che si progettano secondo le esigenze. Io ne ho visto uno che è costato tipo €1 milione nella provincia di Cagliari, che serviva l'intera provincia, per capirci. Cioè per cui i cittadini buttano tutto insieme in un unico sacco? Esattamente, sì, esattamente. E poi quel macchinario lì fa la selezione, dico per dire, si crea un nastro trasportatore che porta questo materiale, passa sotto un magnete e il magnete si chiama tutto l'acciaio. Certo, che è, però evidentemente non si è deciso che è più economico far sì che ogni cittadino lo faccia a casa sua? Dunque, l'economicità dei due sistemi è più, insomma, è da verificare, sinceramente. Io credo che il problema sia in parte politico e in parte un po' di prima evidenza. È chiaro che qualsiasi comune, nel momento in cui è stato incaricato dalla legge di decidere in piena autonomia, ha trovato il sistema che preferiva. Il porta a porta è più semplice. Sì, anche perché forse è un investimento minore di metterci €1,5 milioni per fare il nastro trasportatore, immagino, vero, però, per un comune piccolo. Certo, però non è detto che lo debba fare un comune piccolo. In genere sono operatori specializzati che fanno, sono imprese che mettono su questi macchinari che servono mezza provincia, una provincia, certo, intera. Certo, certo. Non servono un paese di 5.000 abitanti o di 10.000. Vi ho detto, io ne ho visto un impianto a Cagliari che funzionava per l'intera provincia. Beh, ottimo, ti ringraziamo molto, per questa proposta. Grazie Pietro. Accogliamo. Benissimo, allora, dunque un po' di sms. Bruce Willis, Toto Quirinale, impazza e anche impazzito. Gino Strada. Ah, Umberto Galimberti leggo io, del quale sono contento. Chissà perché Umberto Galimberti, cos'è, beh, lo scrittore? Sì, beh, sì, diciamo più sociologo, più filosofo. Tutta. Allora c'è anche chi scrive, buongiorno e complimenti, grazie, Gabriele Prato dice, proporrei Frattini, l'ex ministro, mi sembra una persona molto carismatica, ma secondo te è ironico o è vero? Perché Frattini era molto carismatico come persona? Boh, insomma. A me sembrava una persona abbastanza a modo, ma non particolarmente, cioè proprio non è il carisma la caratteristica, prima mi viene in mente pensando a Frattini. Però c'è un voto anche per Frattini. E abbiamo anche Andrea Camilleri che è arrivato. Bene, adesso ne ha parlato Report della possibilità di far lavorare i detenuti delle nostre carceri gratuitamente o con stipendi, diciamo, poco più che simbolici. Una cosa che succede per esempio in Germania. Ne parliamo anche noi con un progetto che viene da Spoleto. Con le mani tu puoi dire di sì. Allora, io lo dico subito, io sono favorevole a questa cosa di far lavorare i detenuti gratuitamente o anche, come succede per esempio in Germania, con stipendi simbolici, per esempio 12 euro al giorno è lo stipendio che viene dato in Germania. Uno stipendio però, ricordiamolo, che può servire per quelle piccole spese della vita che comunque va avanti anche se sei in carcere. Magari non hai uno stipendio perché non stai lavorando, sei in carcere, probabilmente non hai grosse finanze alle spalle, perché spesso si parla anche di poveri cristi, non sempre, o comunque di gente che non ha il conto corrente pieno. Ti devi comprare le sigarette, una camicia nuova, vuoi un pasto extra di quello del carcere, non hai soldi, ti rivolgi al boss di turno che ti applica lo strozzinaggio. Questo è quello che succede regolarmente. Quindi un piccolo stipendio simbolico in cambio di un lavoro che però può essere utile per tutti, migliora la vita, è una cosa positiva. Ne parliamo con Luca Sardella, direttore della casa di reclusione di Spoleto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. La casa di reclusione, ho detto bene, di Spoleto, così si chiama? Sì, casa di reclusione, esatto. Allora, ci parli di questo accordo che è stato firmato poco tempo fa e che prevede l'impiego di alcuni detenuti della casa circondariale, 16 in particolare, 4 ogni 6 mesi a rotazione, impiegati in piccoli lavori nel comune. Sì, in pratica si tratta di un accordo che è stato firmato il 4 novembre sulla base di una legge, la legge 94 del 2013, che consente proprio l'utilizzo di detenuti per lo svolgimento di attività lavorative a titolo volontario gratuito. E noi abbiamo dato corso immediatamente a questo progetto perché ci interessava e pensiamo che sia, secondo me, il futuro anche della politica penitenziaria. Ma lavoreranno gratuitamente, quindi? Sì. Cioè non si prevede nemmeno un rimborso spese o... No, non è previsto niente. È un impiego di personale, di persone detenute per attività, diciamo, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni. In che mansioni, per esempio, potrebbero essere impiegati? Ma si tratta di lavori in manovalanza, insomma, quindi pulizie, manutenzioni varie, eccetera, in base anche, tenendo conto anche delle attitudini personali. Del detenuto. Parliamo però di persone, se ho letto bene, che hanno commesso reati lievi, non cose grosse. Certo. Abbiamo che abbiano un breve fine pena, che non abbiano commesso reati di rilevante allarme sociale e comunque abbiano mostrato una certa affidabilità personale e lavorativa. Senta, perché lei diceva che questo potrebbe essere il futuro, diciamo, di come si gestiscono anche i detenuti e le persone all'interno delle carceri? Io, per esempio, voglio ricordare questo: in Olanda si paga 16 euro al giorno per stare in galera. Cioè, il problema della sostenibilità anche economica, e quindi secondo lei si va in questa direzione anche per questo motivo? Anche poco, 16 euro, forse siamo in vacanza economico. In Olanda, esatto. Beh, calcolando anche che i fondi, diciamo, ogni anno diminuiscono, quindi bisogna per forza inventarsi qualcosa. Quindi gioco forza che sia applicando soprattutto la normativa nuova che sta venendo alla luce e tutti gli strumenti giuridici che abbiamo, dobbiamo cercare di impiegare le persone che sono detenute, altrimenti li teniamo parcheggiati così. Ma questa convenzione che avete fatto col comune, il comune vi dà indietro qualcosa in termini economici? Cioè, la casa circondariale che lei dirige ci guadagna e quindi ha più risorse? Oppure no? No, noi non guadagniamo niente. È uno scambio puramente gratuito. Perché è vero però che in Germania, ne abbiamo parlato anche noi, i detenuti lavorano per qualche euro al giorno e alcune carceri tedesche sono paragonate ormai a delle medie imprese. Ma sicuramente è un modello a cui guardare con interesse, perché noi invece applichiamo un principio che il lavoro all'interno degli istituti penitenziari è considerato un obbligo per il detenuto, però va retribuito praticamente con delle tabelle che sono quasi corrispondenti a quelle del lavoro esterno, quindi con un costo per la società notevole, per cui si aggiunge al danno, diciamo, arrecato nell'esecuzione di reati l'ulteriore danno poi di dover sforzare delle ingenti somme economiche per tenere in piedi dei lavori all'interno dell'istituto. Ah, ma perché è obbligatorio il lavoro all'interno delle carceri? Cioè, per i detenuti? L'ordinamento penitenziario sì, però poi dopo, poiché i detenuti devono essere comunque remunerati, noi dopo dobbiamo fare una cernita e far lavorare quelle poche persone che possiamo permetterci. Ah, questo allora, scusi, io non lo sapevo, sì. Nel senso che c'è un obbligo di farli lavorare e retribuirli. Siccome però il carcere ha poche risorse, non li può far lavorare tutti perché dovrebbe retribuirli tutti. Esatto, esatto. Anche perché poi non c'è lavoro, magari non c'è lavoro per tutti, bisogna creare dei progetti. Non c'è lavoro fuori, è che ci sia lavoro dentro. Noi abbiamo parlato ad esempio del caso del carcere di Lecce, dove c'è una piccola cooperativa che produce, fra l'altro anche di un discreto successo, borse e cose di tessuti riciclati, ad opera di una imprenditrice molto attiva. Di casi del genere ne abbiamo raccontati. Ci sono anche un po' di messaggi, per esempio ci scrive Beppe al 3422386666. Scusate, io ho fatto il militare di leva nel 94 con 5.000 lire al giorno e non era uno scandalo. Beh, in effetti anche questo è vero, quando c'era il militare o il servizio civile le paghe erano quelle fino a qualche anno fa e non era uno scandalo. Quindi la conclusione è: far lavorare detenuti a poco o a nulla non è uno scandalo. Grazie per essere stato con noi, Sardella, direttore della casa di reclusione di Spoleto. In bocca al lupo per questo progetto, ce ne sono tanti in Italia. Aggiungo un'ultima cosa, Sardella, se è ancora con noi, se la vuol commentare, che mi sono dimenticato di dirlo, però è importante: i casi di recidiva, cioè detenuti che tornano a commettere reati, diminuiscono moltissimo tutte le volte che c'è un percorso di recupero, studio o lavoro, è vero? Certo. Quindi diciamo è una forma di assicurazione che facciamo anche verso noi stessi. Facciamo anche sicurezza indirettamente, ma logicamente abbiamo un ritorno poi sul piano della sicurezza. Benissimo, grazie ancora. Grazie mille. Buona giornata. Sabato. 800 24 00 24. Naturalmente ci piacerebbe sentire anche cosa ne pensano gli ascoltatori su questo argomento, che anche dopo la puntata di Report ha sollevato un po' di dibattiti, come sempre in rete ci sono vari commenti a favore, contro. E anche qualche detenuto se vuole chiamare, giustamente. E come fanno i detenuti? Possono chiamare? Beh, un ex detenuto per esempio, oppure un detenuto, sì, detenuto, certo, che sta lavorando magari. Sarebbe una bella idea. 800 24 00 24, accoglieremo molto volentieri una chiamata del genere. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Abbiamo in onda, in diretta, Dionisia da Milano. Buongiorno. Buongiorno, sì, sono Dionisia e volevo partecipare anch'io al Toto Quirinale. Il nome che mi viene spontaneo dire è Antonio Razzi. E come mai? Mi sembra il personaggio che più degli altri riflette il cinismo ormai comico della politica italiana. Considerate il messaggio che il presidente dà di solito tutti gli anni a fine anno. Ma lei vuole essere, è un auspicio il suo? È un auspicio il suo? Oppure è una, diciamo, è una cosa ironica? Una provocazione? Ironica. No, perché era tutta seria. Pensavo che. Ma sì, ma qui bisogna essere seri per non piangere. Dunque, le immagini il discorso che fa all'ultimo dell'anno, eh? Sì. Allora Antonio Razzi lì lo vediamo seduto bello con le due bandiere eccetera alle sue spalle e incomincia a dire: italiani, sentite a me, fatevi lì cazzi vostri. A me mi si accappona la pelle, signora. A me mi viene da piangere. Esatto, però va bene. Però se lei è contenta, va bene. Razzi, votiamo Razzi, dai, va bene, c'è anche lui. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Adesso ne sentiamo degli altri, perché voglio che venga fuori ancora qualcosa, perché ci sono molte telefonate. Centralino quasi in tilt per il Toto Quirinale. Giulio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, io ero rimasto un po' indietro all'argomento sulla raccolta differenziata. Che va benissimo, anzi ricordo anche l'hashtag per twittare: si può riciclare, scrivete tutto quello che, che vi viene in mente su questo argomento. Prego Giulio. Perfetto. Io volevo parlare dei mozziconi di sigaretta, nel senso che a parte il periodo in cui c'è tutto questo movimento legislativo per equiparare il concetto del mozzicone di sigaretta, che è un rifiuto speciale a tutti gli effetti, quindi va considerato come un singolo rifiuto. Ma infatti direi anche che è passato, sta passando la legge per cui daranno una multa di 150 euro se uno butta un mozzicone di sigaretta in strada, giusto? Esatto, esatto, però vorrei dire che non è che con la repressione della multa si risolve il problema. Certo. Ha fatto tutto un discorso che è quello di sensibilizzazione e anche di attrezzarsi per quanto riguarda una raccolta. Se sappiamo bene il giro, i contenitori che ci sono in giro nella parte comunale sono poco disponibili per ricevere i mozziconi di sigaretta. Ma perché il mozzicone andrebbe in un posto apposito? Andrebbe in un contenitore apposito, in modo che lui segua un percorso. Al momento ha ragione l'ascoltatore, ma non esiste. Però accontentiamoci di non buttarlo in terra, perché secondo alcune voci del mondo scientifico di questi giorni, ma ci sono anche delle ricerche, cioè il mozzicone di sigaretta è cancerogeno addirittura, ha detto anche l'ex ministro Sisi, è venuto fuori. Sono un grande esperto perché sono un fortissimo fumatore. Poi mi dà un fastidio tremendo questa cosa. Il mozzicone di sigaretta ci mette tantissimi anni a riciclarsi perché è fibra di vetro. Quindi uno pensa che sia una roba tipo carta, invece non è così. Infatti il mozzicone, io che sono un fumatore, che cosa faccio? Spengo la sigaretta, la si può anche spegnere, buttare la cenere, la puoi anche buttare per terra, ma il mozzicone lo butto nel cestino della carta. Però io non pensavo che dovessero esserci dei posti appositi con su scritto solo mozzicone. Io c'ho un amico che se li mette in tasca o nel pacchetto di sigarette. Anch'io faccio. Sembra una così. Cosa che fa schifo, ma in realtà fa schifo chi li butta in terra, soprattutto al mare, è una cosa che odio. Ancora ci sono delle persone che fumano e poi buttano la sigaretta come se fosse cosa che sparisce. Ho è una fatto cosa una schifosa, campagna quest'estate, esatto, con i posacenere e quelli portatili che fanno in modo che uno debba che possa mettersi il mozzicone di sigarette in tasca senza metterlo nel pacchetto di sigarette. Dopo esserci infervorati tutti e due sui mozziconi di sigarette, è arrivato il momento di parlare di nuovo con Massimo Temporelli, la nostra guida nei lavori del futuro. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? She said to me, "Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera." Eccoci qua, buongiorno Massimo, ben ritrovato. Buongiorno Alessio. Buongiorno. Buongiorno Carlo. Buongiorno. The Fab Lab Make in Milano, Massimo Temporelli, scrittore, fisico, divulgatore, la nostra guida nel futuro, i lavori del futuro. Abbiamo fatto una lunga carrellata, bello, mi piacerebbe fare magari una pagina anche sul sito di Radio 24, si può fare, dove noi mettiamo tutti i dati ogni volta del programma, con una raccolta di tutte le cose che ha detto Massimo Temporelli. Tutto questo, Massimo, diventerà anche forse un appuntamento l'anno prossimo, è vero? Ci stai lavorando? Sì, sì, ormai è certo, alla fine di marzo, l'ultimo weekend di marzo a Grazzano Visconti, in questa cittadina che sembra fatta apposta per ospitare questo festival, il Future Job Festival, il festival del lavoro del futuro, ne parleremo con esperti, con persone che fanno già i lavori del futuro, è un appuntamento che poi magari ritorneremo a discutere, ma ormai è certo, insomma, ci incontreremo là nel futuro per parlare di futuro. E nel futuro fra tre mesi. Infatti, ma con quella velocità con cui si va oggi è veramente... È quello che voleva dire Carlo, è già quasi presente. È già qua, i lavori del futuro, i lavori di marzo. Ma noi ci saremo sicuramente. Oggi vi raccontiamo bene. Oggi di cosa ci vuoi portare come contributo? Oggi voglio parlare di un lavoro del passato che però, se reinterpretato nel modo giusto, potrebbe diventare veramente, soprattutto per l'Italia, assolutamente futuribile, che è quello dell'artigiano. Noi l'abbiamo chiamato, lo chiamano l'artigiano digitale, che significa reinterpretare proprio tutte le gestualità dell'artigiano. Qualche giorno fa su Facebook mi sono permesso di scrivere che appunto gli artigiani devono riuscire a trasformare non tanto i gesti che fanno con le mani, che quelli devono rimanere, ma secondo me l'artigiano, ho avuto genitori da artigiani quindi so di quello che parlo, a volte l'ho anche fatto nell'estate quando ero giovane. Gli artigiani, prima di fare il gesto artigianale, lo fanno nella mente, prima di farlo con le braccia. Ecco, se riuscissimo a tradurre quel gesto mentale, che sono sinapsi, in un software, in una serie di istruzioni che possono poi salvarsi in un computer e poi possono essere ripetute n volte, soprattutto per le diciamo i gesti più ripetitivi e più noiosi dell'artigianato, no? Ecco, se noi riuscissimo a insegnare agli artigiani italiani a tradurre quei gesti mentali prima che fisici in un'istruzione per una macchina e salvarli su un computer e lasciarli lì, io sono convinto che queste cose diventeranno un giorno non troppo lontano, non dico a marzo ma a novembre dell'anno prossimo, utilissime per l'artigiano italiano. Però devi farci un esempio concreto, perché sennò non capiamo. Come avevi fatto con i contadini, quando avevi detto sì, i contadini 2.0, avevi fatto dei begli esempi. Un gesto concreto, vi dico, un gesto artigianale per antonomasia in Italia è quello della pasta, la pasta sfoglia. Noi abbiamo preso una macchina, una stampante 3D, forse ne abbiamo già parlato, e abbiamo sostituito con una serie di designer per un progetto che si chiama Mondo Pasta, l'estrusore della plastica, quello che sputa fuori la plastica per stampare 3D, e abbiamo messo una lama di un plotter. Ecco, abbiamo preso la pasta sfoglia, l'abbiamo messa sul piano di stampa, abbiamo dato le istruzioni alla macchina per tagliare la pasta sfoglia col disegno che noi desideriamo avere sul piatto, quindi può essere Topolino, può essere la faccia della nonna, può essere la faccia della nonna è veramente terribile. Una lasagna a forma faccia della nonna. Mia figlia, che ha 3 anni e 4 mesi, forse potrebbe anche gradire. Sì, vabbè, mi sembra una cosa, se poi la nonna è morta, mi sembra veramente una cosa terribile, una roba per cui credo che Freud ti viene a prendere a casa. Sì, no, però tutti questi gesti, appunto, che ripeto, lo fa la manina dell'artigiano, e questo dà il valore aggiunto. Ma sulle ripetitività dell'artigianato credo che si debba intervenire, altrimenti perdiamo una battaglia che, appunto, in altri luoghi del mondo sono più veloci di noi e non possiamo entrare in competizione. Questa cosa qua, se tradotta appunto nell'artigianato, nelle piccole botteghe artigianali, penso a Milano ma in tutta Italia sarà così, potrebbe diventare una bomba veramente importantissima per il nostro paese. Scusami, io non ho capito una cosa. Tu stai dicendo l'artigiano deve far sì che una parte delle cose che lui fa deve essere in grado di comunicarle a una macchina, di modo che le faccia una macchina, è questo? Sì, che macchine universali, naturalmente, non sto parlando del trapano o della sega che ha sul bancone. Ormai sono a disposizione delle macchine, appunto, che sono collegate al computer, sono quelle macchine che si chiamano della digital fabrication, che possono essere modificate a piacere e istruite a piacere con un software, appunto, che l'artigiano deve imparare a utilizzare, e che possono ripetere l'operazione n volte. Certo. Ripeto, le operazioni noiose. Io vorrei lasciare all'artigiano la parte conclusiva, la del parte progetto creativa e artistica. Forse ti dico una cosa stupida, ma ho la sensazione che in realtà un artigiano non voglia tanto far sì che una macchina possa sostituire il suo lavoro, perché sennò diventa inutile lui, nel senso che lui dice: questa cosa la so fare solo io e non la faccio fare una macchina, sennò poi un altro è in grado di farla lui con il programmino che io ho scritto. Però il programmino vendere. Esatto, ma però a quel punto, diciamo, fai il produttore di software invece che il l'artigiano. Ma l'artigiano, Carlo, ha sempre usato uno strumento. Adesso Massimo sta dicendo che userà uno strumento tecnologicamente più avanzato, che lo sa usare solo lui in quel modo lì, e che certo, addirittura gli fa anche una parte del lavoro quello ripetitivo. Sembra complicatissimo, ma in realtà applicata questa cosa, e secondo me è l'unico modo da fare, questa è la proposta per si può fare, qual è? E non insegnare agli artigiani questa cosa da zero, perché sarebbe difficilissimo, e soprattutto loro sono un po' resti, come dice Carlo, ad adottare queste tecnologie che sembrano complesse. Il trucco semplice è portare dentro un cavallo di Troia, un makers, un giovane nativo digitale, e in questo modo avremo due piccioni con una fava. Da un lato il giovane nativo digitale entra in bottega e trova un lavoro, magari non retribuito, ma piano piano poi si trova il business insieme, e dall'altro l'artigiano si trova un esperto digitale all'interno della bottega. Potrebbe essere adotta un artigiano o adotta un nativo digitale. Cioè, adotta un nativo digitale. Ok, questa è la soluzione, questo forse è il lavoro del futuro, cioè fare da anello di congiunzione fra l'artigiano e la tecnologia. Sì, noi ci proviamo, è quello che facciamo un po' noi al Fab Lab, in tutti i Fab Lab d'Italia. Cioè, l'idea però è fatto, ritorniamo in bottega, ma non ci ritorniamo nel passato. L'idea è di entrare con un po' di intelligenza e un po' di istruzioni per le macchine, in modo che queste macchine vadano alla velocità delle multinazionali che vediamo che stanno guadagnando terreno giorno dopo giorno anche sui prodotti fisici, insomma, che dovremmo fare noi in Italia e che invece fanno altrove. Benissimo, Massimo, forse abbiamo capito qualcosa anche noi sull'artigiano digitale. Grazie, ci sentiamo sabato prossimo con i lavori del futuro. Buon sabato, 800 24 00 24. Tra poco, dopo il traffico, ancora un paio di ascoltatori, un'altra storia, e poi insomma chi vince il Toto Quirinale di oggi col premio. Chi vince il Quirinale soprattutto. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta e ridiamo per un attimo la voce agli ascoltatori. Abbiamo Fabio che ci chiama da Vicenza. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Volevo intervenire, io sono un ingegnere meccanico ambientale, volevo intervenire per il Presidente della Repubblica e magari dire una parola sulla raccolta differenziata. Prego. Molto rapida. Presidente della Repubblica, io vorrei Gino Strada, ma non per l'effetto emotivo, perché è buono, è bravo ed è di emergency, ma perché per esempio in termini tecnici ha preso quelli che erano i cosiddetti costi standard italiani negli ospedali e ha dimostrato che in tutte le voci di sua competenza lui fa le stesse cose in giro per tutto il mondo a prezzi che vanno dal 50 al 30% di quello dei costi standard. Poi non solo quindi per una questione di costi, insomma, credo anche per la qualità del lavoro che fa. Ma appunto, io davo per scontato la grandezza etica morale, ma per non usare argomenti di natura emotiva, volevo sottolineare l'aspetto tecnico. Perfetto, è di una competenza incredibile l'uomo. Va bene, Gino Strada, segniamo anche questo e poi tra poco diremo chi vince. Fabio, velocemente, che dobbiamo andare con un altro ascoltatore. Sulla questione della differenziata. Sì. La differenziata non solo è un obbligo etico e morale verso le generazioni future, perché il mondo oramai è una spazzatura, tutto il mondo è una spazzatura, ma è anche un affare con cui le comunità possono fare un sacco di soldi. In questo momento il conferimento di rifiuti sostanzialmente al 90% è un conferimento di materia prima che qualcun altro utilizza, oppure che qualcun altro usa come profitto per andare a interrarlo, smaltirlo, sporcando il mondo. Quindi le comunità hanno la possibilità di fare soldi con la differenziata, non di spendere, come funziona adesso. Esatto. È quello che auspichiamo, quello che ha ricordato anche Boschini, autore del libro I rifiuti non esistono, ed è quello che speriamo che accada. Grazie anche a questo ascoltatore, però adesso direi che altri ascoltatori non riusciamo a sentirli perché siamo quasi in chiusura. Dobbiamo dare conto di un'altra storia, è la chiusura del concorso Nati per proteggere, di cui avevamo parlato anche noi. È un'altra bella storia che riguarda una onlus milanese. Help, I need somebody. Just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. All'interno della campagna pubblicitaria Nati per proteggere, AXA Assicurazioni aveva fatto qualche tempo fa un contest che si è chiuso qualche giorno fa, invitando le persone a segnalare storie di protezione sociale sul sito Nati per proteggere e poi a votare la storia migliore, che avrebbe vinto un premio da 50.000 euro per continuare a svolgere la propria azione nel campo del volontariato, delle associazioni, delle onlus impegnate in attività di protezione sociale. Bene, ha vinto Together to Go onlus milanese, che da 2 anni circa offre cure riabilitative a bambini che soffrono di patologie neurologiche complesse, un centro di eccellenza nato grazie alle donazioni dei privati. Ne parliamo con Antonia Madella Noia, che ne è direttrice responsabile. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Una bella storia, un lieto fine. Ci vuol parlare di come nasce TOG, di cosa si occupa? Io ho detto sinteticamente. Sì, TOG è un centro, è una fondazione che ha creato un centro di eccellenza per riabilitare bambini che hanno delle patologie neurologiche complesse, quindi lesioni del cervello o sindromi genetiche con grave ritardo mentale. sono sempre occupata, io e il mio staff, per circa 35 anni di riabilitazione neurologica complessa nell'infanzia, e volevo fare un centro che coniugasse un'eccellenza qualitativa con la possibilità di erogare tutte le terapie necessarie, cosa che purtroppo per la scarsità di risorse il pubblico, che peraltro lavora bene, non riesce a dare. Ho cercato un aiuto in filantropi che me l'hanno dato e mi hanno permesso di costruire questo centro che ha delle caratteristiche di qualità veramente buone, potrei dire buone, se non anche di più che buone. Certo, non spetta a lei dirlo, però certo. Io ci sono stato, devo dire, ho dato un'occhiata, mi è capitato, e la sensazione è quella di un centro veramente di eccellenza. Tra l'altro offrite cure gratuite. Sì, la nota caratteristica è che le cure sono gratuite, perché queste patologie sono così difficili, sì, e così stressanti per le famiglie e per i bambini, che è assolutamente impensabile, afferiscono a quel gruppo della medicina per cui la cura deve essere assolutamente gratuita. E questo era, sì, il punto centrale, perché offrire le cure gratuitamente richiede uno sforzo di ricerca fondi veramente potente, per cui noi avevamo fin dall'inizio deciso che potevamo seguire con cura 100 bambini. Ci siamo arrivati subito, dato il bisogno enorme e questa richiesta enorme, per cui questi 100, che speriamo possano aumentare, ma comunque sono quelli che sono arrivati per primi, sì, noi cerchiamo per loro di fare veramente il massimo possibile in termini riabilitativi, quindi è un centro, sì, sanitario a tutti i livelli. So che avete deciso di impiegare 50.000 euro vinti grazie al concorso di AXA, comprando una stampante in 3D per realizzare delle protesi. Abbiamo appena finito di parlare di artigianato digitale, complimenti anche per questa scelta che qualifica, secondo me, ancora di più l'attività di TOG. Grazie Antonia Madella Noia, dobbiamo grazie chiudere, siamo davvero in grazie casa. Mille. Grazie, grazie. Arrivederci. Allora, io direi che facciamo così, giudizio insindacabile della redazione, vince i biglietti e il catalogo della mostra di Chagall per il Toto Quirinale di oggi. La scelta che ci è piaciuta di più è quella di Gino Strada. Noi indichiamo, buttiamo lì questo nome, però magari, domani andiamo avanti e poi avanti. Magari facciamo semifinali e finali, tanto è lunga, esatto, la corsa per il finale. Grazie a tutti, Andrea Piana, Giorgio De Luca, Pietro Lacorte oggi in regia, Lucia Tolve, Carlo Gabardini e Alessio Maurizi. A domani, ciao, buona giornata, buon sabato. Sì!